chi cerca. Stiamo portando la nostra attenzione in questo tempo su un tema che a volte viene trascurato, che è quello del purgatorio. Abbiamo visto la volta scorsa come sia fondamentale immaginare che quello che è il destino dell'uomo, così radicalmente diviso tra salvezza e perdizione, vita eterna e morte eterna, comprenda anche questa sorta di decisiva anticamera che è il purgatorio. E più volte ho citato un messaggio della Regina della Pace che ben giustifica l'attenzione che bisogna riservare a questo tema. Allorché il 2 novembre del 1983 la Madonna Medjugorje disse che la maggior parte delle anime, dopo la loro morte, vanno in purgatorio. Questo è sicuramente un annuncio di grande speranza, perché dice che allora la maggior parte delle anime si salvano, perché il purgatorio è una condizione di salvezza, per quanto non ancora pienamente realizzata. Bisognerà aspettare l'ingresso nella gloria di Dio, nella visione beatifica che colma ogni attesa, ogni speranza di felicità dell'anima finalmente unita alla comunione con la Santissima Trinità. E questa attenzione che la Madonna riserva proprio alle anime del purgatorio dice come il destino della maggior parte di noi potrebbe proprio essere questo, e quindi ben conviene riservare proprio attenzione a questo tema. Ma lo facciamo da una prospettiva particolare questa volta, cioè ci interroghiamo su cosa possiamo fare noi per le anime che sono in purgatorio. E guardiamo a queste anime che ci hanno preceduto nel cammino della vita. Pensate quando si perde una persona cara, e quando c'è una morte, un lutto in famiglia, quando si rischia forse, secondo la prospettiva del mondo, di fermarsi in superficie, di preoccuparsi dei discorsi più materiali, dell'eredità, delle cose da fare, tutte le varie incombenze da gestire, anche legate magari al funerale, legate alla tomba, alla sepoltura, alle persone da avvisare. E una volta che tutta la cerimonia si è conclusa, ecco che incomincia una parte che è soggetta ad un rischio fortissimo, è quello di dimenticarsi che tutta la scrittura ci esorta a guardare avanti. L'apostolo direbbe a guardare alle cose di lassù, non alle cose della terra. Come possiamo trovare una conferma a questo rischio? Beh, basti pensare quante volte ci ostiniamo a voltarci indietro, limitandoci a ricordare le persone che non sono più. Ben inteso, è una cosa buona poter ricordare a volte le cose belle condivise, ricordare quei gesti, quelle espressioni, quei modi di fare o di dire che ci rendono la persona quasi presente alla mente non appena andiamo in un luogo che c'era familiare o condividiamo qualche magari brandello di memoria con amici con cui ci si trova a parlare di questa o quella persona che non c'è più. Ma non sarebbe sufficiente questo per un cristiano, per coloro che hanno la speranza della vita eterna, è infatti necessario sollevare lo sguardo, guardare al di là, cercare di essere cioè capaci di portare lo sguardo nella direzione di quel futuro che attende noi stessi. E allora, anziché limitarsi a ricordare quest'anima, le cose che abbiamo condiviso, belle, il tempo che abbiamo trascorso insieme, interrogarsi: ma dove si trova quest'anima? In che condizione si trova adesso? Che cosa potrei fare per lei? Ecco perché dobbiamo portare l'attenzione in questa occasione proprio sul tema della preghiera per i defunti che sono ancora in purgatorio. Non dimenticare, mentre ci è una prospettiva di vita che ormai è immortale per l'uomo. Come diceva quel bellissimo libro su Chiara Corbella Petrillo, siamo nati e non moriremo mai più. Sì, la morte tocca una parte della nostra vita, della nostra persona, con la morte terrena, ma l'anima non muore. Allora guardare alle cose di lassù, guardare avanti, guardare al nostro destino, significa anche interrogarsi sulla condizione presente delle anime dei nostri cari. Sapere che non possiamo rinchiuderci in quello scrigno di buoni ricordi che però costringe a voltarsi indietro, falsifica la prospettiva. Un uomo che in cammino guarda avanti. E la nostra vita è un cammino, anche nei confronti delle persone che non sono più vive, fisicamente presenti accanto a noi, dobbiamo tenere lo stesso sguardo puntato avanti, guardare a loro come le anime che ci hanno precedute nel cammino della salvezza e dell'eternità, e quindi anche preoccuparci della loro condizione. Una usanza oggi molto diffusa tra i credenti è proprio quella di pregare per le anime che sono in purgatorio ed è una pratica molto antica. Abbiamo visto che se ne parla anche nell'Antico Testamento, in quel famoso episodio tratto dal secondo libro dei Maccabei, dove per alcuni combattenti di Israele che sono caduti in battaglia si devono elevare preghiere a Dio. Perché? Perché ci si è accorti che nelle tuniche portavano degli amuleti pagani. Quindi hanno peccato, tanto che l'autore sacro non esita a dire sono morti in battaglia valorosamente. Ma sono morti proprio perché non hanno confidato pienamente in Dio, ma si sono affidati alla superstizione, alla ritualità pagana. E cosa fa il capo di questo esercito di fronte a questi uomini che hanno combattuto valorosamente, ma si è scoperto tradendo la fiducia di Dio? Dice dobbiamo pregare per loro e fa offrire un sacrificio. Ora è evidente che se si trattasse di un peccato imperdonabile, se si pensasse che queste anime che hanno fatto ricorso alla superstizione per affrontare la battaglia non possano conoscere sorte migliore perché ormai sono perse per sempre, non avrebbe senso pregare per loro. Ha senso invece pregare se si può pensare che queste anime, una volta purificate, possano finalmente entrare nella gloria di Dio. Ecco quindi, e lo vedevamo nelle volte scorse, che già nell'Antico Testamento si danno elementi indiretti per fondare la dottrina del purgatorio, ma soprattutto si riconosce l'importanza di pregare per le anime dei defunti. E badate bene, cari amici, che sarebbe ugualmente inutile, benché per altri aspetti, probabilmente anche virtuoso ed edificante, pregare per le anime dei beati. Perché le anime dei beati, che sono nella visione beatifica di Dio, che sono già nella piena comunione con la Santissima Trinità, evidentemente non hanno bisogno di preghiere. Allora, come sono inutili le preghiere per le anime dannate, perché non possono e non vogliono conoscere sorte migliore per se stesse, così pure sono inutili le preghiere per le anime beate. Alle anime beate possiamo ricorrere pregandole di intercedere insieme a noi per anime purganti o persone viventi, per le quali stiamo cercando di ottenere delle grazie importanti, ma queste stesse anime beate che tanto possono fare per noi nella comunione con Dio, offrendo le loro preghiere a quel grande tesoro di meriti e intercessioni, che sono proprio i meriti anzitutto di Cristo e poi di Gesù e dei vari santi, queste anime però non hanno bisogno di preghiere. Invece le anime del purgatorio sì. Ed è una usanza molto importante, tanto che ne parla lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1032, quindi ne fa oggetto di quel deposito della fede che definisce l'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Così dice il Catechismo: fin dai primi tempi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché purificati possano giungere alla visione beatifica di Dio. Ecco, è una pratica antica che va subito al cuore della preghiera cristiana, perché il Catechismo dice che anzitutto si offre il sacrificio eucaristico, la Santa Messa. Sappiamo che questa è la fonte e il culmine della vita di preghiera del cristiano, la Santa Messa. Non è paragonabile a qualunque altra pratica di devozione o d'orazione personale, perché nella Santa Messa si rivive in maniera incruenta, cioè non violenta, il sacrificio di Cristo, che ha un valore agli occhi del Padre infinito. Quella è l'occasione più preziosa per offrire preghiere per le anime dei defunti che potrebbero averne bisogno essendo in purgatorio. È importante notare come qui non mi sto riferendo solo o anzitutto alla pratica di far celebrare messe per i defunti, ma alla possibilità che chiunque ha sempre di partecipare alla Santa Messa offrendola per un defunto. Quante volte mi è capitato di sentirmi chiedere: ma dovendo lasciare un'offerta per la Santa Messa, non ho la possibilità di far celebrare tutte le messe che vorrei, perché spesso ci si scontra e bisogna fare i conti con le concrete possibilità economiche di ciascuno di noi. Ma di fronte a questa obiezione mi sono sempre sentito di rispondere quello che il Catechismo, al numero 1032, sembra indicare chiaramente: quello che conta è offrire il sacrificio eucaristico partecipandovi. Non è tanto il problema di far celebrare la messa. Sappiamo che a volte c'è quasi una ritualità pagana anche in questa usanza da parte di chi magari va a messa una volta all'anno, soltanto quando sente nominare, no, esplicitamente i propri cari defunti. Quante volte capitano anche un po' di infortuni quando il parroco magari dimentica un nome, non lo pronuncia giusto. Allora chi ha pagato la messa si sente in diritto di andare a esigere, no, la ripetizione, la correzione. Ma questo non fa parte di quella pratica di misericordia per cui il Signore desidera e si accontenta semplicemente che tu sia presente, che tu partecipi alla Santa Messa, che tu possa offrire questa Santa Messa per le anime dei tuoi cari e non solo. Ecco perché io raccomando sempre vivamente a chi ne ha il tempo e l'opportunità di partecipare alla Messa quotidiana come un'azione di misericordia per la Chiesa purgante universale. Potremmo anche aver esaurito il novero dei nostri cari, per i quali facciamo anche celebrare le sante messe, che è un'ottima pratica, ma potremmo sempre partecipare in prima persona a una santa messa, a un sacrificio eucaristico, offrendo questa partecipazione, questa santa comunione alle anime del purgatorio più dimenticate dagli uomini, quelle che a giudizio di Dio sono più bisognose della divina misericordia. Prosegue ancora il Catechismo. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti. Vedete che ci sono diverse modalità. Posso partecipare alla messa, posso fare un'offerta, un'elemosina, posso offrire una indulgenza. Pensate nell'ottavario dei defunti, dal primo all'8 di novembre, ma in quante feste durante l'anno liturgico la Chiesa offre questa grande opportunità di lucrare un'indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutti i peccati, che potremmo spendere per noi stessi oppure con grande carità devolvere, offrire, regalare in favore dell'anima di qualche defunto. E qui viene citato San Giovanni Crisostomo: «Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli», si riferisce ai defunti. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche consolazione? Qui, se ricordate, nel libro di Giobbe si dice che Giobbe era un uomo giusto e pensava anche ai suoi familiari e ai suoi figli, e periodicamente offriva in loro favore dei sacrifici affinché fossero purificati. E questa è una buona pratica, leggiamola nella prospettiva cristiana di una vita che si apre all'aldilà e possiamo credere che questo sia un invito a offrire sacrifici per le anime che sono in purgatorio. Allora, conclude Giovanni Crisostomo, non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e a offrire per loro le nostre preghiere. Un simile richiamo alla preghiera in favore dei defunti lo troviamo anche nei messaggi della Regina della Pace, come già ricordavo in apertura di trasmissione. Più volte a Medjugorje la Madonna ha ricordato questa pratica di pregare per i defunti, in modo particolare nel messaggio del 2 novembre 1982, quando ha detto: «Le anime del purgatorio aspettano le vostre preghiere e i vostri sacrifici». E ancora il 31 gennaio 1984: continuate ad aiutare i poveri, a visitare i malati e a pregare per i defunti. Ecco che bello questo richiamo alla preghiera per i defunti accanto all'aiuto per i poveri e al visitare i malati, perché è un po' come se la Madonna ci ricordasse l'importanza di integrare la nostra carità attiva, le nostre opere di misericordia, affiancando a quello che è il piano materiale anche l'orizzonte spirituale. E certo, è importante aiutare chi ha bisogno di pane da mangiare o di acqua da bere, andare a visitare chi è solo, portare conforto a un malato, ma è anche importante ricordarsi che questa vita si spalanca su una prospettiva di eternità che in alcuni ambiti, e il purgatorio è proprio quello specificamente più idoneo, hanno bisogno di ricevere preghiere. Allora la nostra misericordia spirituale va anche al di là dell'orizzonte terreno della vita, quando ci ricordiamo, come ci chiede di fare la Madonna, di pregare per i defunti. E un altro invito molto forte a pregare per le anime del purgatorio lo troviamo anche in Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, che nella prima metà del Novecento definisce, sulla base delle rivelazioni che Gesù le offre, quella che è la dottrina della misericordia di Dio. Nel suo diario, nel primo quaderno, leggiamo una testimonianza molto bella, la riporto integralmente perché mi pare davvero eloquente. Dice Santa Faustina: poco tempo dopo mi ammalai. La cara Madre Superiora mi mandò assieme ad altre due suore a passare le vacanze a Skolimov, un po' fuori Varsavia. In quel tempo domandai al Signore Gesù: per chi ancora devo pregare? Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Molto bella questa partenza del diario di Santa Faustina, perché fa vedere come nel pieno abbandono al Signore neppure sceglie lei per chi dover pregare, ma chiede a Gesù: fammi sapere tu chi posso beneficare con la mia preghiera. E Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Ecco, si trova nel purgatorio. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Questo è un passaggio, cari amici, fondamentale, una grande verità teologica. Il tempo di meritare o demeritare per l'anima termina con la fine della vita terrena. Allora, l'anima del purgatorio non può pregare per se stessa, ma può meritare la propria purificazione, diciamo, solo in maniera indiretta. Può offrire preghiere, perché ormai è nella carità di Dio, ma è solo l'amore di Dio che può bruciare in lei quelle scorie, quei residui che ancora le impediscono di accedere alla visione beatifica di Dio. E allora ecco che il fervore con cui queste anime pregano è segno di un'orazione che viene però rivolta ad altre anime, non per se stesse. E Santa Faustina ci ricorda la nostra grande responsabilità perché soltanto noi le possiamo aiutare, scrive. Le fiamme che bruciavano loro, prosegue, non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò un solo istante e chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggiore tormento. È un luogo di nebbia, di confusione, ci sono tante anime, si percepisce la sofferenza e Santa Faustina chiede, come è giusto, ma cosa vi fa soffrire di più? Unanimemente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Ecco che bello andare all'essenza e capire come in fondo il desiderio di Dio è come se fosse la cifra comune nella quale possiamo leggere le analogie e le differenze tra l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Il desiderio di Dio. In fondo il paradiso potrebbe essere il desiderio di Dio che un'anima incessantemente prova e rinnova in se stessa, che è eternamente soddisfatto. È una pienezza mai conclusa, un infinito inizio di nuovi inizi, direbbe San Basilio. Pensate all'inferno, all'opposto, è la totale mancanza di soddisfazione del desiderio di Dio. Uno potrebbe dire, ma le anime dannate non desiderano certo Dio, non lo vogliono, ma sentono che erano state fatte per Dio, che erano state fatte per quel creatore per il quale hanno scelto di giocare malamente la loro libertà rifiutandolo. Allora dovremmo dire, questo desiderio ardente di Dio che non potrà mai essere soddisfatto è l'essenza dell'inferno, questo bisogno di Dio che un'anima rifiuta e rispetto al quale sceglie di separarsi. Il numero 1033 del Catechismo, che più volte abbiamo citato, ricorda come l'inferno è uno stato permanente di autoesclusione dalla comunione con Dio. È proprio questa condizione per cui l'anima si esclude da sola dalla possibilità di soddisfare il bisogno di Dio. E poi c'è il purgatorio, dove potremmo dire, rispetto all'ardente desiderio di Dio, che questo desiderio non è ancora soddisfatto. Si percepisce Dio come si vede la luce del sole dietro le nuvole, ma ancora non se ne gode la piena vista. Prosegue ancora Santa Faustina nel suo diario dicendo: scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamano Maria Stella del Mare. Ella reca loro refrigerio. Avrei voluto parlare più a lungo con loro, ma il mio angelo custode mi fece cenno d'uscire. È molto bella questa immagine di Maria Regina del Purgatorio, di Maria che porta come stella del mare refrigerio alle anime. La stella del mare è un po' l'immagine di Maria che guida il cammino e possiamo pensare che come guida il nostro cammino terreno, il nostro esilio nell'attesa di approdare alla patria celeste, continui a offrire questa guida anche alle anime purganti che sono in cammino, un cammino di purificazione che le porterà poi a entrare nella gloria e nel paradiso. Uscimmo dalla porta di quella prigione di dolore. Sì, dolore perché è sofferenza vera, sofferenza grande, quella di chi non può ancora soddisfare l'ardente desiderio di Dio. Udii nel mio intimo una voce che disse: la mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. E questa voce riconosciamo benissimo, è quella di Gesù, che dice chiaramente che la sua misericordia non vorrebbe questa separazione, ma la giustizia vuole che l'anima sia separata da Dio quel tanto che serve perché si completi la necessaria purificazione che la potrà immettere poi in cielo. Da allora, conclude Santa Faustina, sono in rapporti più stretti con le anime sofferenti del purgatorio. Ecco, la preghiera per i defunti, dobbiamo allora dire che ha un valore enorme per le anime purganti perché abbrevia la loro permanenza in quella temporanea separazione da Dio che è il purgatorio, ma reca pure un beneficio a quanti usano questa stessa carità della preghiera. È come dire che la preghiera per i defunti benefica le anime per le quali è offerta a Dio, le anime del purgatorio, ma porta beneficio anche a chi per esse prega. Perché? Perché quanti pregano per i defunti, proprio così facendo, si procurano potenti intercessori presso Dio Padre, cioè quelle anime stesse che pregheranno poi in loro favore. Questo è una sorta di scambio, di esempio molto concreto di comunione dei santi che ritroviamo richiamato in un messaggio della Regina della Pace del 6 novembre 1986. Cari figli, oggi desidero invitarvi a pregare ogni giorno per le anime del purgatorio. L'importanza della preghiera è proprio definita da questa indicazione temporale. Pregare ogni giorno. Se è una preghiera importante, se entra a far parte delle nostre pratiche di devozione quotidiane, diventa più difficile dimenticarsene o abbandonarla. Dice ancora la Regina della Pace: a ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Con questo, anche voi, cari figli, ricevete nuovi intercessori che vi aiuteranno nella vita a capire che le cose della terra non sono importanti per voi, che solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Ecco che bello. Intanto queste anime incominciano a pregare per noi fin da subito, prima ancora di entrare nella gloria, dove avranno una preghiera ancora più potente, ancora più efficace, ma già adesso, mentre avanzano nella loro purificazione, nel purgatorio, ricevendo le nostre preghiere, ricambiano con altra preghiera, uno scambio di carità. E qual è la carità più grande che ci fanno queste anime? Anzitutto, accogliendo la nostra preghiera, ricordarci che la meta del cammino di ogni uomo è il paradiso. Ricordarci che proprio l'attenzione nei loro confronti, l'attenzione al loro destino di anime purganti che stanno per entrare in quel cielo che noi stessi dovremmo desiderare, è il miglior antidoto a ridurre la vita dell'uomo a un cammino puramente intramondano. Perciò, prosegue la regina della pace, cari figli, pregate senza sosta, affinché possiate aiutare voi stessi e anche gli altri, ai quali le preghiere porteranno la gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io credo che sia importantissimo questo richiamo alla preghiera dei defunti come sorta di convenienza spirituale per chi accoglie questo invito. Da una parte c'è la convenienza di sapere che delle anime pregheranno per noi e chi di noi potrebbe dire non ho bisogno di preghiere. Dall'altra, l'importanza di essere richiamati mentre si svolge questa pratica al nostro destino eterno. Siamo fatti per il cielo. Occupandoci delle anime dei defunti, ci ricordiamo che anche noi un giorno potremmo avere bisogno di queste preghiere, che anche a noi un giorno si spalancheranno le porte dell'eternità. Guardate come questo richiamo alla preghiera dei defunti, che condivido con voi in questa occasione, spalanca orizzonti di vita nuova già nel presente. Pensiamo a tutte le questioni più controverse di cui si discute normalmente nella vita dell'uomo, tutte le questioni di bioetica, l'aborto, l'eutanasia, il suicidio assistito, ma anche i grandi dibattiti sulla ideologia del gender, sulla educazione all'affettività, alla sessualità, sulla libertà e il diritto dei genitori di educare i propri figli. Pensate a tutte le grandi questioni sul rapporto tra la scienza e la verità. Tra quello che l'uomo può fare e quello che gli è lecito realizzare. Pensate alle tante speranze che l'uomo di oggi sembra mettere anzitutto nella scienza, dimenticandosi che senza Dio non esiste futuro per l'uomo né benedizione, non esiste speranza di salvezza né vita eterna. Insomma, pregare per i defunti mi costringe a sollevare lo sguardo, mi costringe a evitare un grande rischio, che la mentalità odierna del mondo cerca di farci correre il più sovente possibile, il rischio di ridurre la vita umana in una prospettiva puramente intramondana. Cosa vuol dire? Concepire la vita dell'uomo come quell'insieme di giorni finiti che l'uomo vive, spende, brucia, consuma sulla terra, come se la vita fosse semplicemente questa triste e assurda parentesi, tra la culla e la tomba. Come facciamo ad accorgerci se stiamo correndo questo rischio? Beh, pensate a quanto detto in apertura. Che rapporto abbiamo con i nostri defunti? A volte vivere soltanto di ricordi, voltandosi indietro, a volte ignorare quella che è la prospettiva presente di queste anime, a volte non interrogarsi su quello che è il loro destino eterno, la situazione presente di bisogno di preghiere, perché i nostri cari aspettano le nostre preghiere. La mancanza di questo orizzonte, di questi interrogativi, dice l'incapacità di guardare al di là di quello che è l'orizzonte terreno. E non dico questo soltanto pensando alle persone che si dichiarano esplicitamente atee, materialistiche, quelle che hanno rifiutato Dio dopo magari essere anche cresciute nell'alveo della Chiesa Cattolica. Dico questo pensando anche a quanti tra di noi si dicono cattolici, vanno a messa tutte le domeniche, si accostano ai sacramenti con una certa regolarità, ma quando poi arriva il momento di giudicare la propria vita nella luce della fede, ecco che allora manca la connessione concreta tra ciò in cui dico di credere e ciò che poi vivo realmente. E allora ecco che anche tra di noi si corre il rischio di continuare a voltarsi indietro, di vivere di ricordi, di pensare è tutto qui, è tutto finito, l'ho perso per sempre. Questa prospettiva, guardate che inficia anche la nostra concezione dell'aldilà, perché sovente pensiamo che il massimo bene possibile per chi è già morto sia di ritornare in vita da noi, perché io ne ho bisogno, ma questo sarebbe un grandissimo torto nei confronti di coloro che diciamo di amare. perché nessuna gioia è più grande di quella che un'anima vive in cielo in comunione con la Santissima Trinità. E allora chiediamoci se amore è vero per i nostri cari quando siamo noi a voler quasi riportare indietro il nastro della storia, riportando noi sulla terra, in questa valle di lacrime, in questo esilio lontano da Dio, coloro che invece già ora godono o nella speranza o nella realtà effettiva la beatitudine con la comunione d'amore che la Santissima Trinità offre loro. Se noi stessi abbiamo il desiderio del paradiso e del cielo, non potremmo desiderare se non cominciare a guardare a queste persone che ci hanno preceduto, traendo esempio dalla loro virtù cristiana, dalla loro vita di preghiera, traendo da loro lo stimolo per perfezionarci sempre più rapidamente e poter presto raggiungere noi con loro questa meta, questa vita beata. Ma è chiaro che questa prospettiva richiede il salto della fede e richiede il desiderio di Dio. Quando prima accennavamo, leggendo quella bellissima pagina di Santa Faustina Kowalska, alla pena più grande del purgatorio, l'ardente desiderio di Dio, io temo che per molti di noi o per qualcuno di noi in certi momenti della sua vita sia un'espressione puramente teorica. Se non siamo noi per primi innamorati di Dio, questo desiderio ardente di Dio non lo comprendiamo. Faccio un riferimento molto concreto, ma lo porto dalla mia esperienza. Ogni volta che mi capita di girare per questo, quella parrocchia, paese, associazione, gruppo di preghiera, un po' in tutta Italia per fare testimonianze sulla vita eterna, che poi è il tema che ho più a cuore, io mi accorgo che se comincio a parlare del tema un giorno rivedremo i nostri cari, tutti drizzano le antenne e sono ben interessati a quello che sto per dire. Ma se io comincio dicendo in paradiso incontreremo il nostro Signore Gesù, devo dire che nella maggior parte dei casi, quasi la maggioranza dei presenti incomincia a dire, vabbè, vediamo di cosa ci deve parlare. Non c'è un desiderio reale di incontrare il Signore, che dovrebbe essere il primo termine del nostro amore. Sì, ci sarà anche modo di incontrare i nostri cari, ma anzitutto dovremmo avere a cuore l'incontro col Signore. Ecco, vedete come questo tema della preghiera, per i defunti abbia delle implicazioni così importanti. Proprio per vivere nella concretezza della fede cristiana la nostra vita presente in maniera diversa. Allora sì che giudico tutte le situazioni in maniera diversa, ma quella persona che è morta dopo così lunga malattia non è più un'ingiustizia, è un mistero nella volontà salvifica universale di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, come ricorda la prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4. Ma per salvarsi è anche necessario purificarsi su questa terra. A quante anime, a nostra insaputa, Dio ha fatto il dono di quella malattia, di quella sofferenza, di quella difficoltà per essere purificate, per ridurre o addirittura magari espiare totalmente il proprio purgatorio qui in terra. Allora adesso capiamo perché grandi padri dello Spirito suggeriscono di chiedere la grazia di poter anticipare il proprio purgatorio sulla terra, perché se quello che io desidero anzitutto è incontrare il Signore, allora è evidente che questo incontro lo posso vivere nella speranza di essere supportato anche dalla preghiera di tutte quelle anime che io ho cercato di beneficare per primo, pregando per loro, ma soprattutto nella prospettiva di dire: io voglio già in questa vita cercare di togliere il purgatorio dalla mia prospettiva di dopo la morte, voglio poter andare subito in paradiso. Guardate che non sto dicendo di andare alla ricerca di chissà quali sofferenze, la vita ne ha già di prove. Il Signore conosce già le croci che incontreremo sul nostro cammino. La grazia di poter vivere il purgatorio in questa vita si ottiene semplicemente offrendo con amore, per grazia di Dio, a Dio stesso tutte le sofferenze che incontreremmo. Quelle stesse sofferenze che potrebbero essere motivo di recriminazione, di risentimento, di ribellione, di rabbia, diventano occasione per dire grazie. Leggevo qualche tempo fa una bella testimonianza, un libro un po' datato, ecco, di quasi un secolo fa, intitolato Intervista col diavolo, e dove questo giornalista racconta di un esorcismo che si è celebrato nel 1920 circa in provincia di Piacenza. E il sacerdote esorcista, padre Pierpaolo, racconta alla fine di questa testimonianza molto, molto profonda, molto toccante, per certi aspetti drammatica, ma edificante, perché alla fine trionfa la potenza di Gesù che libera dal demonio. In questo caso c'era un'ossessa che soffriva da 7 anni di questa possessione. E alla fine però c'è una sorta di incidente, di infortunio, per cui questo sacerdote, una volta liberata questa ossessa, porta però nel suo corpo le conseguenze di questa opera che ha fatto contro il male. Non si lavora mai gratis, mi diceva un santo sacerdote esorcista qualche anno fa, quando si vuole collaborare con il Signore nella lotta contro le potenze delle tenebre, come dire, si paga sempre qualche cosa. Questo sacerdote, che ebbe poi problemi di salute fisica, malattia, per tutto il corso della vita diceva: Dio è misericordioso, temevo peggio, ma se basta questo, sono lieto di aver dato la mia parte. Ecco, e questo è uno sguardo totalmente aperto alla misericordia di Dio, ma anche al desiderio del cielo. E guardate che basta poco, eh? Quei piccoli infortuni quotidiani, il ritardo, l'imprevisto, l'arrabbiatura, se offerti al Signore, scontano poco o tanto quel purgatorio che ci aspetta. Perché? Perché evidentemente a forza di fare questa offerta si vive quel rinnegamento quotidiano di sé, che è la condizione essenziale per la sequela di Cristo. In questa sequela a Cristo, in questo cambiamento di prospettiva sulla nostra vita terrena, per cui diventa anzitutto un pellegrinaggio verso il paradiso, diventa fondamentale ricordarsi delle anime dei nostri cari anche attraverso le preghiere che vengono insegnate dalla tradizione della Chiesa. Da questo punto di vista mi colpisce come in questi ultimi anni si sia ripresa da più parti la devozione della preghiera Ti adoro, o Croce Santa. Una preghiera che ancora con Paolo VI era stata confermata nel suo valore di preghiera di indulgenza. C'erano dei privilegi collegati a questa preghiera. Se recitata 50 volte nel giorno di venerdì, quando si fa memoria della passione e morte in croce di Gesù, che ha aperto col suo sacrificio le porte del paradiso all'umanità, si pone termine al purgatorio per 5 anime. Se la si recita 33 volte, quanti gli anni della vita terrena di Gesù, il venerdì santo, quello cioè della settimana di Pasqua, si liberano 33 anime. Poi queste indicazioni a volte sono oggetto della revisione liturgica dell'indulgenza operata dallo stesso Paolo VI, ma io dico a volte non mettiamo termine alla misericordia di Dio, noi recitiamo questa preghiera e lasciamo che sia poi il Signore a decidere quando e quante anime poter liberare. La voglio recitare questa preghiera perché è bellissima, magari alcuni di voi non la conoscono, non la ricordano più, è occasione per riprenderla. Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata del corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, o Croce Santa, per amore di colui che è il mio Signore. Amen. Ecco, possiamo dire che anche tante altre preghiere potrebbero andare bene, evidentemente, per ricordare i nostri defunti, ma quelle che ci consegna la tradizione della Chiesa, diciamo che sono delle garanzie, un modo per vivere in concreto la comunione dei santi. Adesso proviamo a vedere l'altro aspetto della questione nel tempo che ancora ci rimane. E noi possiamo sicuramente pregare per le anime del purgatorio, pregare per i nostri defunti bisognosi di preghiere. Ma loro possono pregare per noi? Pregare per le anime del purgatorio vuol dire anzitutto mantenere un vivo legame di carità con i nostri cari. Poi non preoccupatevi, ma se quel caro defunto è già in paradiso, la mia preghiera va persa. No, la tua preghiera è come una moneta gettata nel tesoro del tempio. Se non è indirizzata a quel defunto, verrà utilizzata per qualche altra anima che ne ha bisogno. Sempre essere generosi nell'offrire preghiere e indulgenze, perché poi con altrettanta generosità il buon Dio sa per chi indirizzare queste preghiere. Un esempio molto bello, commovente, vorrei dire al tempo stesso, di quanto sia vivo il legame con i nostri cari defunti, lo posso trovare in una bellissima pagina delle Confessioni di Sant'Agostino. Il vescovo di Ippona si trova a ricordare la preghiera che aveva elevato a Dio quando era morta la madre Monica. Sappiamo quanto la madre di Agostino abbia inciso nella conversione di questo figlio. E ricorda dalle Confessioni il libro 9, il paragrafo 13, Sant'Agostino: Ti prego ora per i peccati di mia madre. Dammi ascolto per colui che è medicina delle nostre ferite, che pendette dalla croce e che stando alla tua destra intercede per noi. So che essa ha agito sempre con misericordia e ha perdonato di cuore i debiti ai suoi debitori. Condonale tu stesso i suoi debiti. Ecco, intanto è commovente come Agostino affidi l'anima della madre che tanto lo aveva accompagnato a incontrare il Signore, a incontrare la fede, no, fino al battesimo, e poi muore sulla strada del ritorno verso l'Africa, verso la patria di Agostino. E noi pensiamo a Santa Monica, questo gigante di donna, di madre, di sposa che con le preghiere, il silenzio, le lacrime ha potuto ottenere da Dio la grazia della conversione del figlio. E vediamo che Agostino dice: Ti prego ora per i peccati di mia madre. È molto bello questo incipit perché ci ricorda che la santità non è l'assenza del peccato. La santità coincide con la fiducia senza limiti che il peccatore ripone nella divina misericordia, per cui è capace di andare oltre il suo peccato chiedendo a Dio perdono. E poi procede ancora Agostino dicendo: Ispira, o Signore mio e Dio mio, ispira ai tuoi servi e miei fratelli che tutti coloro che leggeranno queste pagine si ricordino al tuo altare di Monica, tua serva. Quindi il figlio che pure è ben consapevole della giustizia cristiana praticata dalla madre, è anche conscio di come la sua anima abbia bisogno di preghiere per la purificazione che l'attende dopo la morte, per essere mondata da ogni macchia che potesse eventualmente ostacolarne l'ingresso nella gloria di Dio. E si premura di chiedere anche ad altri la carità di questa preghiera. Io ricordo quando ho letto la prima volta in vita mia le confessioni, avevo 16 anni, sono rimasto colpitissimo da questo aspetto, tanto che quando poi la mia insegnante di filosofia mi interrogò sulle confessioni come approfondimento facoltativo e personale, lei era tutta intenta a farmi domande sulle questioni più filosofiche, il tempo, la durata dell'anima, e invece io continuavo a dire: guardi che quello che mi ha veramente colpito è questo punto qui, cioè che queste pagine a distanza di più di 1600 anni potessero raggiungere il lettore, come ero io allora, e sentire rivolgere a me questo appello. Tu che stai leggendo adesso questa pagina, ricordati tu di mia madre quando sei all'altare, cioè quando ti presenti a offrire il tuo sacrificio, quando partecipi alla Santa Messa. Allora che bello se noi potessimo considerare questo grande privilegio di rimanere in comunione con i nostri cari, anzitutto nella preghiera. Questo vuol dire un legame vivo, attuale, spirituale. Ora, se abbiamo un rapporto così intenso che ci lega ai nostri cari defunti, perché essi non potrebbero vivere la stessa realtà di comunione con noi attraverso la preghiera in nostro favore? Perché non potrebbero, cioè, i nostri cari defunti che sono in purgatorio, vivere in reciproco questo legame di comunione nell'amore e nella preghiera? Allo stato attuale, l'insegnamento della Chiesa è che le anime del purgatorio partecipano all'opera complessiva di santificazione mediante l'accettazione della loro personale purificazione. Certo, potremmo dire che la Chiesa tutta deve santificarsi. In che modo contribuisce un'anima che è in purgatorio, accettando di essere lì? Se ricordate, quando abbiamo presentato l'insegnamento di Santa Caterina da Genova sul Purgatorio, dicevamo che c'è quasi un paradossale incontro ossimorico tra la gioia e il dolore nel Purgatorio, perché c'è il dolore di non poter soddisfare ancora l'ardente desiderio di incontrare Dio da parte dell'anima, ma c'è anche la gioia di dire: so che è giusto essere qui. So che è la volontà di Dio, ma è anche la mia volontà. Facevo l'esempio banale forse, ma penso chiaro, della sposa che, avendo macchiato il proprio vestito, dica: prima di correre in chiesa per arrivare il prima possibile dinanzi allo sposo, preferisco ritardare ancora un po', ma arrivarci col vestito pulito, col vestito immacolato. Ecco, e di fronte a questo uno potrebbe dire: ma già la semplice accettazione della loro situazione di purificazione fa sì che le anime del purgatorio partecipino alla santificazione della Chiesa universale. Sì, ma nell'orizzonte della carità reciproca che caratterizza la comunione dei santi, io ritengo che non sia affatto da escludere la speranza che le anime dei nostri cari defunti, che adesso sono in purgatorio, possono pregare per noi che conduciamo ancora il nostro pellegrinaggio terreno. Come i nostri cari ci sono stati vicini col pensiero, con l'affetto, con la preghiera durante la vita, perché non potrebbero farlo anche dopo, mentre si trovano in purgatorio? Certo, una parte della loro opera, forse di preghiera, potrebbe essere destinata in maniera significativa alla Chiesa universale. Forse, essendo immersi in quella carità che ancora non contraddistingue le anime peregrinanti sulla terra, potrebbero essere meno attaccate all'idea: prego per mio figlio, prego per mio nipote. Noi sulla terra facciamo più fatica ad avere questa libertà. La libertà di dire: io offro a te, Signore, la mia preghiera secondo la tua intenzione, perché tu sai chi più ne ha bisogno. Sembra quasi una freddezza, un torto magari nei confronti dei propri cari essere così liberi, ma se andiamo al cuore di quella che è la consacrazione a Gesù per Maria, secondo l'insegnamento del Monfort, vediamo che invece è esattamente questa l'essenza di darsi interamente a Gesù attraverso Maria. Ti offro tutti i miei beni materiali, spirituali, presenti, passati e futuri. Qualunque preghiera, qualunque opera di intercessione, qualunque messa a cui parteciperò, qualunque elemosina, qualunque indulgenza, vedi tu chi più ne ha bisogno. Sì, certo, posso, proprio perché sono ancora inserito in questo orizzonte sensibile, in questo cammino terreno, posso esprimere un affidamento, un desiderio, se possibile, ti prego per la mia nonna, per mio nonno, per mio padre, ma con la libertà di offrire questa preghiera in maniera condizionata. Se tu vuoi, Signore, usala per quest'anima, ma diversamente impiegala per chi più tu sai ne abbia bisogno. Che bello poter pensare che in cielo questa libertà sia la caratteristica saliente della preghiera per le altre anime. In cielo si è già nel mistero della carità di Dio, si ha una prospettiva meno campanilistica, fatemi dire così, si entra nella dinamica della fratellanza universale e si può pregare per tutti. Ma perché togliere la possibilità di credere che proprio per quel permanere di legami particolari, per quella tua storia personale, perché non considerare la possibilità che tu possa anche pregare, adesso che sei in purgatorio, per quel tuo nipote, per quel tuo figlio, per quella tua figlia che sai che ha particolarmente bisogno? E una conferma in questo senso, io credo che possa emergere se andiamo a rivedere quel bellissimo testo che è il Credo del Popolo di Dio. È la professione di fede che venne pronunciata da Papa Paolo VI nel corso della omelia con cui concludeva l'anno della fede durante la celebrazione svoltasi in Piazza San Pietro il 30 giugno del 1968. In quel Credo del Popolo di Dio viene affermato: noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di Cristo, ecco la comunione dei santi, di tutti coloro che sono pellegrini su questa terra, la Chiesa peregrinante, siamo noi che siamo vivi qui in terra, dei defunti che compiono la propria purificazione, il purgatorio, e dei beati del cielo, il paradiso, i quali tutti insieme formano una sola chiesa. Quindi c'è la chiesa peregrinante, di noi che siamo ancora vivi sulla terra, la chiesa diciamo così, che purgante, che si sta purificando, e la Chiesa trionfante, quella Chiesa che è già nella gloria, nella visione beatifica di Dio. Noi crediamo, prosegue Paolo VI, che in questa comunione l'amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere, secondo la parola di Gesù, chiedete e riceverete. Quindi è interessante perché è come se questa idea di preghiera in favore dei fratelli non valesse in maniera univoca, ma biunivoca, e cioè noi preghiamo per loro, ma loro pregano per noi. E le anime dei beati evidentemente possono pregare per le anime purganti e per le anime di noi che siamo ancora sulla terra, e noi possiamo reciprocamente con le anime del purgatorio scambiarci questa grande carità della preghiera, che però, ricordo, per essere autentica, gradita a Dio, deve essere anche un po' libera, da quei vincoli che a volte poniamo in maniera un po' egoistica o egoriferita al Signore. No, prego soltanto per i miei cari, ma guarda, dovrebbero esserti cari tutti, perché siamo fratelli dinanzi a Dio Padre. E poi c'è ancora un riferimento dal numero 123 del Catechismo di San Pio X, dove leggiamo: i beati del paradiso e le anime del purgatorio sono anch'essi nella comunione dei santi, perché congiunti tra loro e con noi dalla carità, ricevono gli uni le nostre preghiere, le altre i nostri suffragi, e tutti ci ricambiano con la loro intercessione presso Dio. Ecco quindi che beati del paradiso e anime purganti, tutti ci ricambiano intercedendo presso Dio. Si potrebbe a volte obiettare, ma questo è il in fondo il catechismo di San Pio X, è passato un secolo, era un po' il catechismo forse per il popolino, domande e risposte, fatto in maniera semplice, ma a volte nella semplicità di certe affermazioni ci sono grandi verità. E qui penso proprio che la grande verità che incontriamo è che la comunione di amore si esprime nella forma di carità più bella, che è la preghiera reciproca. E questa preghiera vale a tutti i livelli. Beh, è una preghiera in favore delle anime del purgatorio, è una preghiera come si può dire, di affidamento magari per le anime dei beati, quando diciamo: guarda, ti prego, aiutami, partecipa con me a questa preghiera per intercedere per. Le anime purganti possono avere beneficio della nostra preghiera, noi possiamo avere beneficio delle preghiere che riceviamo dalle anime che sono in purgatorio, ma anche in paradiso. E poi posso ancora, arrivando alla conclusione, ricordare il messaggio che già ho citato della Regina della Pace, datato 6 novembre 1986, quando a Medjugorje diceva: a ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Come dire, ricordatevi che le anime del purgatorio hanno bisogno anche delle vostre preghiere per essere purificate, per essere finalmente liberate. E poi aggiungeva: con questo anche voi, cari figli, riceverete nuovi intercessori. Ecco quindi la conferma attraverso quello che è il mistero della dottrina cattolica, ma anche i messaggi della Regina della Pace, di quanto profondo possa essere il legame tra le anime attraverso quel rapporto che proprio nella preghiera nasce, si approfondisce, si consolida. Una preghiera che, lo ripeto, diventa quanto più preziosa, se consideriamo che non è soltanto importante per l'efficacia che riveste in favore delle anime per le quali la indirizziamo, ma soprattutto perché questa preghiera mi permette di cambiare lo sguardo che posso avere sulla mia vita. Tutto quello che abbiamo condiviso in questa occasione possiamo ridurlo a una semplice pratica di devozione per i nostri defunti, per chi ci crede, oppure possiamo dire: è stata l'opportunità preziosa di ricordare una grande verità di fede. Siamo fatti per il cielo, e in questa prospettiva la preghiera per i nostri cari ci apre un orizzonte in cui già possiamo camminare. Noi siamo già fatti per l'eternità se soltanto consideriamo che la nostra anima è immortale, ma nella preghiera per i defunti, ecco che allora viviamo questo mistero come attuale, come presente. Questo cambia totalmente la prospettiva in ogni momento del quotidiano, anzitutto, come già ricordavo, con quella buona pratica di chiedere a Dio la grazia di saper offrire tutte le croci, le fatiche e le sofferenze quotidiane per poter scontare il nostro purgatorio già in questa vita. Se la Madonna Medjugorje ha detto che ci converrebbe rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della morte, credo che farne tesoro voglia dire anzitutto questo: offrire al Signore tutto quello che incontreremo per sua grazia, per sua misericordia, come sofferenze e dolore sulla nostra vita, per poter espiare quanto più possibile del nostro purgatorio già qui su questa terra. Ecco, cari amici, si conclude il tempo a nostra disposizione. È stata una puntata, penso, molto intensa, ma che spero abbia dato stimoli concreti per prendere sul serio questo invito alla preghiera per le anime dei nostri defunti, sapendo che tanto ne riceveremo noi stessi per primi che pratichiamo questa devozione. Nel salutarvi, desidero chiedervi ancora di pregare per il Santo Padre, per la Chiesa, per tutti i sacerdoti e i pastori, e ricordare anche me, Diego Manetti, nelle vostre preghiere. Un cordiale saluto.